pure e continua pure a nascondere dietro concetti astratti le tue paure che si invischiano o si frantumano. Fatto sta che crollano sulle pareti fluide delle mille lune, sulle pareti fluide delle mie mille lune. Vivi, vivi pure e continua pure a vivere dentro l'inganno. Costruisci il tuo mondo virtuale di parole come tela invisibile di un ragno che attende paziente prede nuove per la prole. Se tu hai pane per i miei denti, io ho fucili per le tue pistole. Io ho fucili per le tue pistole. Navi che arrivano e altre partono dal molo, le stagioni cambiano, cambiavano e cambieranno di nuovo. Farvi preconcetti su di me, non fate progetti sul futuro di un re. Ogni punta di coltello che mi punta poi risulta punta di matita per un nuovo disegno. Ho fumato le mie marionette da un bel pezzo, i miei figli li ho tagliati, i vostri li disprezzo. Va bene, siamo tutte vittime ed io sono il pazzo, ma la vostra falsità io non la voglio neanche per un cazzo. Anche per un cazzo. Navi che arrivano e altre partono dal molo, le stagioni cambiano, cambiavano e cambieranno di nuovo. Navi che arrivano e altre partono dal molo, le stagioni cambiano, cambiavano e cambieranno di nuovo. Di nuovo.